ricordi com'è nato L'Ultimo Faro? Durante la presentazione hai detto che hai ricevuto il sostegno di molte persone per portarlo a compimento. Com'è stato questo percorso? Beh, io ho pensato di scrivere stavolta un romanzo corale con tante voci diverse che raccontassero una parte di storia, che convivessero insieme, quindi la storia non raccontata da un unico punto di vista esterno, il narratore, o anche interno, ma comunque da un unico punto di vista che porta avanti una vicenda, ma più voci, tanti ragazzi, quindi ho scelto anche questa ambientazione affascinante, appunto lontana un po' dal mondo, in modo che i ragazzi potessero interagire tra loro. Ne ho parlato di questo progetto inizialmente appunto alla mia gente, che mi ha molto sostenuto, perché mi ha detto: guarda, è un libro originale, non che non ci siano storie del genere in generale nella letteratura, ma è nella narrativa italiana che effettivamente non si fa mai un progetto di questo tipo. Poi ne ho parlato all'editore e l'editore ha sposato questo progetto, ha detto: no, ci piace molto, è una bellissima idea, vediamo come vai avanti. Quindi è nata un po' così, e poi è nata da un'idea che, niente, leggendo il giornale ho letto che questi luoghi bellissimi, patrimonio dello Stato, vengono affidati o venduti, no? E quindi in certi casi addirittura per farne quello che ho raccontato nel romanzo. E allora tante cose si sono messe insieme, è nata questa storia. Ovviamente a posteriori molti hanno riconosciuto, che so, il modello Decameron, ed è vero, indubbiamente quando si scrive un libro c'è tutto un passato, un classico, c'è anche un presente, perché la letteratura è tutto, è contemporaneità, è passato, è tante suggestioni insieme, esperienza, background e immaginazione. Questo libro ha viaggiato molto, perché hai detto che sei andata per le scuole, hai incontrato i ragazzi, come sono stati i riscontri? Molto positivi, soprattutto alle scuole superiori, perché di solito, diciamo, la fascia in cui si legge di più sono i bambini della scuola elementare fino alle scuole medie, poi c'è una sorta di abbandono, no? Di proprio crollo verticale della lettura, e questo è un peccato, perché l'adolescenza è l'età perfetta per leggere libri, ma oggi il modello vincente non è certamente questo. Allora andare a parlare, a incontrarmi proprio intorno a questo libro con ragazzi delle superiori che lo hanno accolto con grande favore, per me è stata veramente una grande sorpresa. Allora è ovvio che io per ogni libro faccio sempre un lavoro di promozione nelle scuole, è un lavoro che io faccio da 20 anni, da quando ho cominciato a scrivere, perché è importantissimo che gli autori si commisurino, si confrontino con il loro pubblico, soprattutto quelli per ragazzi. Quindi anche quest'anno è, diciamo, per me è stato importantissimo confrontarmi proprio con loro. E poi è nato il progetto dei laboratori, che per me è stato meraviglioso, perché i ragazzi che hanno partecipato lo hanno fatto con un entusiasmo, una motivazione fortissima, erano ragazzi anche problematici loro, in zone non facili, hanno visto nel raccontare le storie un grande riscatto e una grande possibilità per loro. E cosa speri che lasci il tuo libro ai ragazzi? Cosa speri che smuova dentro di loro? Intanto la passione di leggere, perché io spero che da questo libro vadano a cercarne altri. Se è il Decamerone, meglio, cercheranno il Decamerone, o Wonder, che anche quello è un libro che ha una forma appunto così di romanzo corale. Che leggano soprattutto, non esiste un libro solo preferito, esistono tanti libri preferiti che poi cambiano nella vita. Ultima domanda, qual è stato il tuo primo libro preferito? Hai detto che ce ne sono tanti nella vita, riesci a identificare il primo? No, è facilissimo, Piccole Donne, perché era Jo, la scrittrice, io la adoravo, e Piccole Donne è stato il mio libro proprio più importante.